Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Parliamo di minorenni, frequentiamo minorenni, succede di frequentare le minorenni, lo fa la società occidentale, lo fa lo Stato, lo fa il legislatore. E come le frequenta le minorenni? Le frequenta così, che loro possono andare in un qualunque supermercato, si chiama farmaco da banco negli Stati Uniti e in diversi altri paesi, e comprare la pillola del giorno dopo. Il suggerimento della farmacologia, della farmacopea in questo caso da banco, è: siete assolutamente libere, care ragazze, senza bisogno di una ricetta medica, senza bisogno di alcun controllo sul funzionamento del vostro corpo, senza bisogno di alcuna riflessione sul significato di questo gesto, di prendere un piccolo veleno, e con questo veleno, che il cui principio attivo è il progestinico, impedire che si annidi anche dopo l'ovulazione eventualmente, e quindi si trasformi in embrione fecondato, il frutto di un rapporto d'amore, diciamo così, insomma, di un rapporto sessuale che è intercorso entro 72 ore dall'assunzione di questa pillola. Insomma, in sostanza, la società occidentale, e il discorso ormai dilaga, prima o poi arriverà anche in Italia, adesso è arrivato in Spagna, nella famosa cattolicissima Spagna, dopo l'Inghilterra, dopo la Francia, eccetera. Il principio fondamentale educativo, il modello educativo fondamentale per queste pillole, vengono messe nei dispensari scolastici, vengono messe a disposizione delle ragazzine. Il modello educativo è: quanto prima, insomma, quando te lo suggeriscono gli ormoni e senza tante preoccupazioni di socializzazione del fenomeno dell'amore, dell'amore fisico, del rapporto sessuale con un tuo interlocutore, con un essere umano col quale ti vuoi legare, senza nessuno di questi problemi che sono vecchio ciarpame, senza pudore, tu minorenne prenditi questa benedetta pillola e così elimini il problema dell'aborto. Il punto grave, drammatico, è che questi sistemi, i famosi sistemi di contraccezione preventiva o di emergenza successiva ai rapporti, diciamo così, d'amore, va bene, non producono alcuna riduzione degli aborti, posto che questo possa mai essere il modo di evitare un aborto. Producono invece, danni non credo solo virtuali alla salute e al corpo delle donne, sono comunque una invasiva tecnica, diciamo, che riguarda loro e solo loro e solo la loro responsabilità, e in una lunga catena che va dalla pillola fino alla pillola del giorno dopo, fino alla pillola che è diversa, RU486, la vera pillola abortiva. In una catena, diciamo, di morte legata al processo della vita, impongono un modello culturale che fa un po' schifo. Questa è la mia opinione. Però adesso la verificheremo, questa opinione, con Nicoletta Tiliacos del Foglio, con Mariella Gramaglia, già assessore alle politiche per la semplificazione, la comunicazione e le pari opportunità al Comune di Roma, che ha recentemente pubblicato Indiana, nel cuore della democrazia più complicata del mondo, perché è esperta di India e frequentatrice di quel paese, Michele Calcaterra, corrispondente dalla Spagna del Sole 24 Ore, Guido De Franceschi, che scrive sul Foglio e sul Giornale, e anche lui è recentemente stato in Spagna per un'inchiesta, proprio nel momento in cui le polemiche su aborto, contraccezione, maternità, atteggiamenti natalisti e antinatalisti fervevano. Bene, chiediamo a Michele Calcaterra, corrispondente dalla Spagna del Sole 24 Ore, che cosa sta succedendo in quel paese. Aborto libero a 16 anni e pillola del giorno dopo libera a 16 anni. È una bella novità, diciamo. Beh, diciamo, buongiorno intanto. Buongiorno. Diciamo che era nell'aria, nel senso che è ormai da anni che Zapatero spinge verso un modello di paese laico, diciamo super laico, quindi è intervenuto su materie che riguardano la persona, materie che riguardano la religione, la cultura e via dicendo. Era questo nuovo progetto, insieme a quello dell'aborto, nuovo progetto di legge che sta per essere varato, dicevo, era dunque nell'aria, e quindi hanno deciso, con effetto dai prossimi 3 mesi, di questa pillola del giorno dopo nelle farmacie, liberamente anche a favore dei minorenni. Vedo che i provvedimenti sono firmati sia dal ministro della Sanità, la ministra Trinidad Jiménez, sia da quello delle pari opportunità, Bibiana Aido, quindi diciamo c'è un'allusione al fatto che qui non si tratta soltanto di curare fenomeni sociali come appunto il dilagante aborto per quello che riguarda la Spagna, perché l'aborto è in forte aumento in quel paese, ma anche di affermare diritti di libertà e specificamente una cultura di libertà e di identità femminile. Che tipi di persone sono questi Trinidad Jiménez, Bibiana Aido? Io ho una curiosità, siccome lei è lì corrispondente, conosce la composizione del governo, il suo modo di operare, ci può fare un ritratto? Che persone sono? Sono normali dirigenti del PSOE, del Partito Socialista, eccetera, oppure c'è qualcosa di nuovo, di interessante nella loro formazione culturale, nel loro modo di vivere, di intendere i problemi della società? Perché questo radicalismo poi deve avere anche una sua sorgente umana, personale. Beh, diciamo che sono due dirigenti di partito, sono due socialiste, insomma, sono due ministre che la caratteristica che hanno è che intanto l'età, sono giovani, secondo di essere donne e quindi di avere una sensibilità sicuramente diversa da chi le ha precedute. Terza cosa, stanno interpretando la filosofia di questo paese, che appunto sta spingendo per togliersi dalla cultura religiosa, ma anche da una cultura franchista che è stata, non dimentichiamola, imponente sulla diciamo la formazione della borghesia e della società spagnola. E quindi la scelta di Zapatero è stata verso due donne sicuramente progressiste, due donne che vogliono svecchiare la società e dare una maggiore libertà al paese. Certo, c'è da intendersi, come diceva lei prima, cosa si intende per libertà e quali effetti possano avere tutte queste decisioni. Insomma, è un po' una crociata laica, diciamo così. C'è un elemento anche molto di riforma della coscienza pubblica in Spagna, e questo naturalmente è legittimo, ma tra gli oppositori si è sentito, abbiamo letto le cronache, i vescovi, le grandi mobilitazioni, le radio cattoliche, eccetera, eccetera. C'è un'opposizione anche laica, di idee, un po' come abbiamo cercato di costruire qui in Italia, anche attraverso una lista elettorale di grandissimo insuccesso contro l'aborto. C'è un'opposizione laica, cioè non legata ai vescovi, non legata alla Chiesa cattolica, culturalmente? Certo. Sì? Qual è? Sì, intanto c'è il Partito Popolare che gioca sulla Chiesa e anche sulle famiglie, però insomma molti esponenti del Partito Popolare sono fortemente contrari a queste nuove decisioni. Ma poi c'è tutta una parte del corpo medico, ci sono anche scrittori e gente comune che è contro a questa diciamo deriva di Zapatero, del Partito Socialista, che tende a veramente a laicizzare in maniera estrema il paese. Sono soprattutto preoccupati del fatto che ci siano queste misure e, come diceva lei, non ci sia una prevenzione che può essere fatta a scuola, può essere fatta in famiglia, insomma manca tutto quello che è il background culturale. Sì. Insomma, e più ancora che prevenzione, direi che manca una cultura dell'amore, cioè un sostrato educativo che sappia fare un discorso sull'amore ai giovani, ai ragazzi, alle ragazze. Esattamente. No? Esattamente. Vabbè, almeno questa è diciamo il mio parere. Grazie Calcatera, ci ha inquadrato un po' la situazione, diciamo fattualmente, partendo da lì. Naturalmente il primo problema è efficace questa strategia, cioè la mentalità contraccettiva universale è un deterrente, perché tutto comincia da lì, noi spesso non ce lo ricordiamo, ma tutto comincia dalla pillola la reazione universalistica contraria alla pillola di un papa, la Umane Vitae, il grande scandalo dentro la Chiesa. La Chiesa era pronta a dare la pillola a tutti, anche alle minorenni, la Chiesa intesa come gerarchia, ma un papa, Paolo VI, disse no, scusate, anche se voi in maggioranza mi consigliate di farlo, io vi dico no, e spiegò perché no. E da lì è nata una storia che naturalmente praticamente non c'è storia, no? I tempi moderni sono fatti così, che chiunque si pone dalla parte, diciamo, di un diritto di proprietà su se stesso dell'uomo, di autodeterminazione, poi alla fine vince. Diverso è il caso dell'aborto, dove il diritto della donna deve essere bilanciato con un altro diritto, come sappiamo. Ma insomma, tutto nasce dalla pillola, dall'invenzione della pillola, come si chiama? Pincus. Ecco, quella è stata la grande bandiera, diciamo, di una rivoluzione intellettuale, culturale, dei modelli educativi che ancora oggi ci riguarda e che si intreccia con aborto, divorzio, eccetera. Anche se il divorzio in parte è un problema diverso. Mariella Gramaglia, è efficace la mentalità contraccettiva per risolvere un problema che, comunque la si pensi, credo anche lei condivida il problema, insomma, non è bella l'idea che a 15-16 anni uno, diciamo, fa l'amore in modo un po' generico, poi occorre in un incidente, perché lo chiamano così, corre in farmacia e ne elimina le conseguenze, oppure abortisce con la pillola o chirurgicamente. Allora, la mentalità contraccettiva non ha fallito, diciamo, lo scopo di rendere asettico e brillante, come dire, il comportamento sessuale dell'individuo occidentale? Ma io devo dire una cosa, che forse questa questione del mettere tutto dal punto di vista occidentale mi convince fino a un certo punto, perché la contrazione della natalità, cioè l'abbassamento del tasso di natalità, è un problema universale. Cioè, se voi pensate che in Spagna e in Italia, con politiche così diverse, noi abbiamo un tasso di natalità che è identico, che è l'1,3%, che è identico a quello della Cina, che è sempre l'1,3%, e che non è poi così distante ormai da quello dell'India, che è il 3,1%. Cioè, noi abbiamo una tendenza mondiale, poi con articolazioni diverse a seconda naturalmente del livello di benessere, del livello di attesa sul futuro, una tendenza mondiale, possiamo dire purtroppo, naturalmente anche questo è da discutere, a fare meno figli. Mi scusi Gramaglia, ma in Cina e in India la tendenza, diciamo, non è una tendenza naturale, no. è una tendenza suffragata da una feroce legislazione di family planning, di pianificazione familiare che diciamo elimina attraverso l'amniocentesi e la ricognizione del sesso del nascituro un intero universo, le donne che dovrebbero essere difese dalla mentalità contraccettiva. Esattamente come dice lei, anche se adesso pensi che stanno tentando di liberalizzare di nuovo le scelte, e lo credo, hanno paura anche dell'invecchiamento della popolazione e la gente resiste, non vuole più tornare ai vecchi comportamenti. E lo credo bene, li hanno educati al disprezzo per la vita umana. È un po' diverso, perché è un po' più simile, diciamo, alla società pluralista occidentale, per cui ci sono anche fenomeni molto più individualistici. Però le voglio dire questo per dirle semplicemente, non per sviare il problema che lei pone, ma per dirle semplicemente che noi ci troviamo di fronte a dei comportamenti universali che tendono a ridurre la relazione degli adulti, perché poi parliamo di uomini e donne, perché c'è anche una responsabilità comune, verso la generazione successiva. È come se non ci affacciassimo più verso il futuro, capisci? A me sembra questo il vero problema. Qualche volta abbiamo delle controtendenze che sono per lo più non legate a politiche etiche, morali e di valori, ma sono legate a politiche sociali. Per esempio il caso della Francia è un caso in cui noi abbiamo un tasso di natalità che aumenta di nuovo, un maggiore amore per la famiglia, perché siamo all'1,9, quindi con tassi alti rispetto a tutti gli altri paesi europei, ma non è perché in Francia si fa una grande battaglia ideologica contro l'aborto, anzi, se torniamo al nostro discorso della pillola del giorno dopo, come lei sa, la Francia è un paese molto laico da questo punto di vista. La Francia è un paese abortista dove gli aborti non sono diminuiti di una sola unità nonostante la contraccezione da circa 30 anni e in cui la deriva eugenetica dell'aborto è sempre più sensibile, nel senso che si abortisce selettivamente. E tuttavia, in Francia noi abbiamo un tasso di natalità che si avvia a diventare quasi il doppio di quello dell'Italia e della Spagna. Sì, perché ci sono 4 milioni di emigrati. Ma questo anche in Spagna ormai, tant'è che quando lei accennava al grande aumento di aborti in Spagna, cosa vera peraltro, mi pare che più del 20% di questi aborti siano tra le immigrate, no? E che è molto di più del tasso di popolazione di donne immigrate in Spagna, fenomeno che c'è anche in Italia. Bene. Insomma, le dico tutto questo, scusi, per dirle una cosa molto semplice, poi tornando alle nostre ragazze, che io sono perfettamente d'accordo sul fatto che la sessualità è un atto d'amore, di relazione, di tenerezza, e che così dovrebbe essere nel nostro mondo, così come lo desideriamo. Nello stesso tempo, la mia domanda poi è sempre quella, tutto questo si impone a una ragazzina semplicemente dicendole corri, perché poi la cosa ansiogena della pillola delle 72 ore è che più corri e meglio è, come lei sa, no? Perché più ci si avvicina alle 72 ore più l'effetto è rischia la nullità. Allora, corri come una pazza, vai dal medico di base, se non lo trovi vai in ospedale, forse l'ospedale ti diranno di no, eccetera eccetera, e finalmente con l'affanno riesci ad avere questa pillola, perché così la tua coscienza parla in questa corsa affannosa e piena di infelicità. Ecco, io le proporrei di fare un passo indietro. A noi interessa entrare, come lei dice, frequentare le minorenni, entrare in relazione con loro attraverso questa corsa dell'infelicità o attraverso un'altra strada? La strada mi sembra di dire, scusa, finché ai 16 anni rientra presto la sera, non darla via e pensa a costruirti una identità erotica, d'amore, sessuale, insomma, matura, perché per il resto non capito. Se invece gli dici, guarda, ti è testa pilloletta, che se ti arriva l'incidente te la prendi, insomma, non mi sembra però, un modello educativo. Però, cosa voglio dire, poi chiudo perché sto parlando anche troppo, per fare quello che dice lei, e bisogna cambiare tante cose. Io non so se lei ha visto questo documentario Il corpo delle donne. So che è un'operazione di propaganda, così. È stata costruita una cosa grottesca, per matti. Ma non le voglio descrivere tutto il documentario, le voglio dire solo la frase di una ragazza. Le donne sono martoriate dai farmaci e dagli aborti, secondo me, non da altro. Ma anche da questa terribile deformazione fisica della follia della chirurgia estetica. Tutto si tiene. Questa ragazza a un certo punto nel documentario dice una cosa che mi ha colpito molto. Dice, io ho studiato 4 anni alla Bocconi per studiare marketing. È una ragazza bellissima, non c'è ombra di dubbio. Dice, alla fine dei 4 anni, sapete cosa ho deciso? Ho deciso che il prodotto sono io. Ora, questa ragazza è una ragazza... Spaventoso. Certo. Una ragazza intelligentissima, di queste, con tutti i 30 lodi, perché è stupido pensare che le ragazze belle, veline, eccetera, sono cretine. Non sono cretine per niente, no? Semplicemente c'è un prosciugamento etico che porta a applicare la loro intelligenza in un modo dissennato. Allora, per dirla con Berlusconi, se non fossi sposato la sposerei. Capisce che lavoro enorme si deve fare? Questo è il mio problema. Va bene. 800 24 00 24, pillola del giorno dopo, aborto, modelli educativi, il sesso delle adolescenti, delle minorenni e il modo in cui la società si organizza per fronteggiarne le conseguenze cosiddette indesiderate. Ne stiamo discutendo. Roberto da Roma. Roberto. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Vabbè. Dunque, io volevo raccontare un'esperienza che mi è capitata nei giorni di Pasqua. Ero in vacanza in Sicilia, esattamente a San Vito Lo Capo, con la mia fidanzata. Posto bellissimo. In una farmacia, ed è capitato per caso che entrasse una ragazza, presumibilmente una minorenne, e che così di punto in bianco ha chiesto alla farmacia una pillola del giorno dopo. Il farmacista è rimasto bigottito, ha balbettato qualche cosa, dopo che le ha detto che non era possibile aiutarla. La ragazza ha anche detto che non era del posto, e quindi cercava comunque un aiuto. Praticamente è stata buttata fuori dalla farmacia, al che la mia fidanzata ha cercato di aiutarla, di parlarci, e le ha detto che lei si trovava in quel posto perché era stata invitata da una persona del posto, che era successo appunto quello che era successo la notte prima, e che adesso desiderava appunto trovare una soluzione a questo problema, ed era palesemente abbandonata a se stessa, ecco, diciamo così. Quello spunto per me è stato molto importante per fare una riflessione e per dire che non c'è assolutamente nessuna forma di assistenza oggi in Italia per persone, ragazze, anche minorenni o anche maggiorenni, se vogliamo, che si trovano in un problema di questo tipo. Ma lei pensa che la conseguenza di un atto d'amore debba essere diciamo il panico e poi l'assistenza, l'idea che possa nascere un figlio, che possa eventualmente nascere un figlio, è una tragedia indicibile? Allora, dunque, io ho avuto anche esperienza. Cioè, perché per esempio c'è quel famoso film americano, quella favola, che però non è una favola, è anche una realtà sociologica, l'adozione, no? Si ricorda Juno, la bambina che decide: no, io non faccio l'aborto, io faccio il bambino e lo do in adozione. Non so, voglio dire, ci sono molte possibilità di assistenza che non si configurano come dice, datemi subito questo veleno per limitare le conseguenze del mio atto d'amore, non crede? Nel libero arbitrio, credo anche molto che qualsiasi persona debba decidere di fare quello che vuole quando riguarda, quando si tratta di qualcosa che riguarda direttamente la propria persona. Se io ho necessità o desiderio, voglia di prendere una pillola, io devo essere libero di farlo. Perfetto, cioè, d'accordo, benissimo. Quindi io dico viva la Spagna, viva la Spagna. Sì, viva la Spagna, la libertà, la civiltà e l'assunzione di pillole liberamente. Va bene. E io però devo ricordare, prima di dare la parola a un nuovo ascoltatore, quello che ha scritto Nicoletta Tigliacos oggi. L'accesso facile e senza limiti, addirittura preventivo, alla pillola del giorno dopo. Preventivo significa ti do una bella scorta, così poi dopo eventualmente te ne servi. Non soltanto l'accesso facile non fa calare il numero di aborti, e qui la libertà si scontra con i diritti di un altro, perché l'autodeterminazione va bene, ma insomma fino a un certo punto, ma si accompagna addirittura un aumento dell'abortività tra le adolescenti, vale a dire il target d'elezione di questo intervento farmacologico. Vuole spiegarci questo suo... Beh, non è una mia opinione, certo, è in realtà il portato di tutti gli studi che sono stati fatti, non tanto sul legame tra pillola del giorno dopo e aumento degli aborti o comunque delle gravidanze adolescenziali, perché non dimentichiamo che è il motivo per cui anche in Spagna è stata decisa questa liberalizzazione, quindi in farmacia senza ricetta, è proprio questo dell'aumento esponenziale degli aborti tra le ragazzine. Allora, il problema è questo, ed è un fatto che per esempio l'America ci dimostra con grandissima chiarezza. Con l'arrivo della pillola del giorno dopo, quindi l'idea che tu puoi in qualche modo mettere una pezza, come di fatto diceva l'ascoltatore prima, di corsa a una cosa un po' imprudente, non solo gli aborti tra le adolescenti non solo tra le adolescenti non sono calati, ma sono addirittura cresciuti. Allora, che significa? Significa che c'è, come dire, una filosofia di offerta contraccettiva d'emergenza, che poi noi sappiamo che tende a diventare di routine invece, ed è uno dei motivi per cui è bene, secondo me, che continui a esistere una ricetta medica. E questa grande offerta invita a una grande disattenzione. Io penso che l'amore, diciamo, ha un oggetto primario che è anche l'amore per se stessi, anzi direi in questo caso per se stesse, perché è molto importante, e lo racconto al signore, sempre al signore di prima, il fatto che comunque questi interventi farmacologici non sono mai innocui per le donne, quindi l'idea che una donna effettivamente viva la propria libertà come libertà di inzepparsi le pillole prima, durante, dopo, sempre, ecco, però qui c'è l'obiezione, ognuno fa quello che vuole. Sì. Rosa, Rosa dalla provincia di Milano, prego. Rosa, buongiorno, guardi, io sento tante chiacchiere, tante sì. parole dette dai cattolici. Ebbene, ci sono sì. cattolici e non cattolici. I cattolici sono liberi di fare quello che vogliono, sì. però sì. non possono impedire agli altri di fare altrettanto. Punto. Sì, io non sono cattolico e non voglio che mia figlia vada in una scuola dove dall'insegnante al bidello, all'operatore sanitario, a quello che gli fa l'educazione sessuale, gli insegnano che se si fa l'amore poi dopo si prende una pillola e si uccidono le conseguenze dell'amore, oppure si abortisce e prima di questo ci si mette un preservativo. Una società così a me non piace, sono laico, non sono cattolico. Ha capito? Sì, ma questo è un qualunquismo. No, ha capito, sono laico, non sono cattolico. Ha capito? No, ma le è entrato in testa questa cosa? Che ci sono dei laici che pensano con la propria testa e che non la pensano come lei? L'ha capito o no? Loro sono liberi di non farlo. L'ha capito o no? L'ha capito? No! Le ho detto che io non voglio una società in cui il modello educativo che riguarda anche me, le persone a me care, le persone alle quali io voglio trasmettere ciò che ho imparato da mia madre, da mio padre e dalla mia storia, cioè un'altra idea dell'amore, non voglio che queste persone abbiano il modello educativo che piace a lei. L'ha capito che è una battaglia culturale su come far vivere la società e che non c'entrano le tonache, i cattolici e i pregiudizi religiosi? Non è cattolico, dice di non essere cattolico. Se lei l'ha capito, mi fa il piacere di dire l'ho capito. Se non l'ha capito, no, pazienza. Io capisco benissimo lei, il suo punto di vista. Benissimo, oh, perché bene, non capisce grazie, il punto di vista degli altri. Grazie, grazie. No, io il suo punto di vista lo capisco benissimo. Ne parlo, lo rispetto, lo introduco in ogni modo nel circuito informativo di cui sono responsabile, ma lo contrasto e voglio essere rispettato. Non voglio che si dica tu parli a nome del vescovo e sei un oscurantista, perché questo è un modo indegno di discutere in una democrazia. Ha capito? È una determinazione propria, è un controllo sulle donne, vogliono ancora il controllo sulle donne. Sì, vabbè, queste sono le solite balle del protofemminismo, del cavolo radicale, vabbè. Ho capito. Cristina da Bologna. Buongiorno. Cristina. Allora, buongiorno. Mi sentite? Sì. Sì, allora, io volevo dire intanto che prima lei parlava di amore e poi si è riferito alla ragazzina che rimane incinta a 16 anni che vuol prendere la pillola come se una l'ha data via, ecco, ed è rimasta incinta. Però lei non considera anche che ci può essere anche la possibilità che invece abbia fatto l'amore con un suo coetaneo e poi abbia cambiato idea, oppure quando si è lì in quei momenti, e penso che tutti ci siamo passati, chi a 16, chi a 18, chi forse a 20, chi forse anche a 12, il confine tra la capacità del fermarsi invece e lasciarsi andare è molto sottile, quindi secondo me non si può poi fare dei moralismi. Allora, premetto che io ho due bambine, una di 11 e una di 5 anni. Non ho voluto fare la amniocentesi quando ero incinta perché ho detto non voglio neanche pormi la possibilità di pensare all'aborto, perché io sono per la vita. Però con questo io credo che ognuno debba avere la possibilità di decidere e non si possa dall'esterno imporre la propria volontà. Io dico un altro piccolo aneddoto, perché comunque non ci possiamo stupire del fatto che magari ci sia una stimolazione sempre più precoce dei sensi di queste ragazzine e ragazzini, perché io parlo sempre di coppia, non si può parlare solo di bimbe. No, le pillole le prendono le donne, non i ragazzi. Lo so, però, è inutile raccontarci favole. Allora io entro nel merito. E abbia pazienza. Sì, no, sono stata sempre fatta oggetto bersaglio, cioè tutti i ragazzini ci provano, c'è poco da fare, e uno cerca di aspettare quello giusto, però insomma alla fine parliamo anche dei ragazzini. Allora, io sono mamma di due femmine, non voglio fare quella di parte. Se avessi un ragazzino maschio, credo che cercherei e avrei cercato di educarlo proprio per il rispetto anche e cercare la persona giusta. Però allora io appunto dicevo, due ragazzine, adesso la società dei consumi, no? Praticamente la pubblicità degli abiti femminili, vabbè, o maschili, insomma, certo, adesso sì. Il discorso però diventa troppo complicato, troppo lungo. Comunque siamo d'accordo, sul fondo della sua obiezione, siamo d'accordo, cioè capisco la sua obiezione, un'obiezione libertaria, dice vabbè, uno può avere tutta un'altra visione della realtà, però bisogna essere comprensivi, non moralistici, e autorizzare queste cose. Lei è anche d'accordo sulla pillola del giorno dopo come farmaco da banco a disposizione delle minorenni, oppure pensa che ci vogliano dei filtri? Allora, io credo che ci vorrebbe comunque un sostegno psicologico, perché può succedere una volta nella vita... Mi risponda però, perché non abbiamo più tempo. Sì, allora... Ci vogliono dei filtri oppure va data come farmaco da banco a tutte? Se ci fosse la capacità in famiglia di spiegare la cosa, potrebbe essere data da banco, se no... Sì, Vabbè, la sua risposta è un sì, e d'altra parte a volte uno non ha la risposta, è un fatto oggettivo. Guido De Franceschi, la situazione, per tornare alla situazione in Spagna che lei ha trovato nel corso della sua ultima inchiesta, c'è qualcosa di nuovo o è sempre la solita diciamo, battaglia culturale piena di equivoci? Ma sì, non c'è niente di nuovo particolarmente. Zapatero ha scoperto finora che questo è un campo politico nel quale gioca con grande vantaggio e quindi lo utilizza anche per stornare il dibattito che l'opposizione vorrebbe imporre, ad esempio in questo caso quello economico. Se uno guarda i commenti dei giornali lontani da Zapatero, più vicini al centrodestra, non soltanto sulla questione della pillola, quanto due titoli, El Mundo e ABC, due giornali vicini al centrodestra. Lo Stato della Nazione, che è in corso in questi giorni, necessita di altre pillole. L'altro giornale dice una pillola politica per salvare il dibattito sul Stato della Nazione. Quindi il problema è che il dibattito è asimmetrico. Da un lato c'è il Partito Socialista, un grandissimo partito, al governo, con tutti i suoi elettori, in cui non ci sono praticamente defezioni. Dall'altro lato ci sono molte organizzazioni, anche molti scienziati, che si battono, fanno grandi manifestazioni contro queste proposte di leggi o leggi zapateriste, ma non hanno un movimento politico che li possa supportare. Ad esempio la pillola del giorno dopo è stata autorizzata in Spagna nel 2001 con grande protesta della Conferenza Episcopale Spagnola dal Partito Popolare di centrodestra, che ora quindi può sì opporsi a questa ulteriore facilitazione nell'accesso alla pillola, però non può cavalcare in maniera molto efficace la battaglia culturale di cui lei sta parlando. E quindi Zapatero ha campo molto molto libero davanti a sé. A campo libero, per questa ragione eminentemente politica. Giuseppe da Firenze, 800 24 0024. Giuseppe. Pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono totalmente in disaccordo con gli ascoltatori precedenti e dico che le cose da fare, secondo me, a mio modesto giudizio, sono tre. Uno, insegnare ai nostri giovani e io ho una bambina come figlia di 5 anni, a prendersi carico delle proprie responsabilità. Se sbagli paghi in primo conto, ma più che altro che è sto discorso, prendi la pillola perché hai commesso un errore, allora niente, fuggi dalle tue responsabilità, tanto c'è la pillolina. In secondo luogo, per non farvi perdere tempo, dico subito che proprio le istituzioni dovrebbero dare un messaggio chiaro, in primo luogo facendo sì che nelle scuole si faccia una vera e concreta istruzione sessuale, che è da tanti anni che se ne parla, ma in realtà viene fatta, per carità, ci manca solo quella. Sì, viene fatto molto, no, ma dico, se viene fatta, lei sa benissimo come verrà fatta, data la cultura dominante. Quello triste è che ci scordiamo io mi scordo di essere in Italia, purtroppo. E terzo, quello riguardo alle adozioni, che ho sentito che è stata menzionata, rimodificare il tutto. In Italia deve essere possibile, come nel resto del mondo, adottare i bambini italiani, perché anche una ragazza che volesse fare la scelta di dire la do in adozione sa benissimo che in Italia o l'abbandona da qualche parte. No, si può, c'è una legge apposta, la 194, che lo consente, l'adozione dei bambini. Ma se va a vedere, perché ho una storia in famiglia, se va a vedere le caratteristiche richieste, diciamo così, è praticamente non è cambiato niente da 10 anni. Infatti bisognerebbe cambiare. Perché noi siamo italiani, dobbiamo distinguere. Grazie Giuseppe. Uliana dalla provincia di Lucca. Buongiorno. Io ho 40 anni, ho 3 figli, vengo dall'Italia, vengo dalla Germania. E ho scoperto da poco che non mi posso neanche far sterilizzare qui in Italia, proprio non mi danno la possibilità. Vedo che non c'è neanche informazione fra le donne di questa cosa qui. E mi sembra, insomma, che c'è da fare un lavoro tutto intorno a questa pillola del giorno dopo. Bisogna dare prima anche la possibilità di fare diversamente. Fra l'altro, io non è che ne so dire da dove l'ho saputo, ma per quanto ne so, sono più gli aborti delle donne che hanno già figli, che non di quelli dei 16 anni, 18 anni. Ho capito. Va bene, grazie della sua testimonianza. Lucio da Reggio Emilia. Sì, buongiorno. Io mi riallaccio al ragionamento che faceva un ascoltatore precedentemente, che riguardava il fatto che, premetto che sono assolutamente contrario alla liberalizzazione di questi farmaci, soprattutto se rivolti a un pubblico minorenne, ma io focalizzerei l'attenzione al più che altro al ruolo che ha l'uomo la notte prima, cioè se c'è la necessità di una dell'assunzione di questa pillola, significa che non c'è stata proprio la minima preoccupazione di quello che poi un atto può andare a generare, per cui che facciano più attenzione gli uomini, che spesso presumo che siano anche più maturi, diciamo, di queste minorenni che poi sono costrette a rivolgersi alle farmacie. Sì, appunto, che poi è molto semplice, secondo me, lo dico a Mariella Gramaglia, e so di non incontrare il suo favore, ma so che il suo disfavore è sempre mitemente, razionalmente e intelligentemente costruito. Alla base di tutto c'è una cosa molto semplice. Se non sei in grado di affrontare, non vuoi affrontare le conseguenze dell'amore, vai al cinema. Ecco, alla base di tutto c'è questo, perché il mito della liberazione sessuale cos'è? È che ad ogni costo e comunque tu devi poter esercitare come fosse un diritto il sesso incurante delle conseguenze per te e per gli altri. Questo riguarda sia il maschio sia il rapporto tra la donna e la conseguenza dell'amore. Gramaglia. Ma più responsabilità, diceva l'ascoltatore, più responsabilità agli uomini, figurati degli uomini, figurati con me sfonda porte apertissime, nel senso che dopo tanti anni di femminismo ho sempre battagliato perché gli uomini fossero meno indifferenti, meno gelidi, meno sfruttatori, diciamo, del piacere legato al rapporto così molto strumentale con le donne. E io ho soltanto un dubbio nelle ultime parole che lei ha detto, cioè non è che noi intendo la nostra generazione, invecchiando, perché ahimè questo paese invecchia, diventiamo più immemori, più distratti rispetto alla, come dire, alla forza delle pulsioni, delle passioni. Beh, è vero che invecchiando andiamo molto al cinema. Che noi stessi avevamo a 20 anni. E quindi noi andiamo più al cinema, andiamo, certo, più a cena, certo, con gli amici, certo, leggiamo più dei buoni libri di filosofia. È evidente, e questo ci autorizza, è questa la saggezza antica. La saggezza antica vuole che si invecchi non per incentivare il disordine dei più giovani, no, Mariella. Certo. Non per dirgli fate tranquilli, certo, questa è la sindrome del 68, certo, e della cultura degli anni 60, fate quello che cavolo volete, no, se si invecchia si va al cinema perché si sono capite delle cose. Disordine. O no? Come? Dicevo, io me lo ma ricordo. Certo che me lo ricordo, me lo ricordo anch'io. Anche lei. Ma certo che me lo ricordo e penso che debba essere temperato, governato, dalla saggezza dei più grandi. Governato. Sì, governato da modelli educativi che non lo riproducono. Non so, Tilia Cos, ha diritto anche lei a chiudere la trasmissione con una ma sua io, sentenza. Ma io appunto, no, io non voglio... Bisogna ricordarci del disordine e quindi lasciar passare ogni cosa, o bisogna, diciamo, fare la nostra funzione? Io dico che bisogna fare la nostra funzione ricordandoci del disordine. Due, cioè, sì, credo che sia assolutamente necessario, perché saremmo, se no, crudeli e soprattutto inefficaci. Cioè, quindi, proprio perché ci ricordiamo del disordine, sappiamo che il disordine porta molta felicità ma anche molta sofferenza, quindi il problema è toccare anche le corde giuste. Per questo io parlavo dell'amore per sé. Secondo me una ragazzina che si rifiuta di fare, come per esempio qualcuno mi racconta, di addirittura prenderle il sabato sera prima di andare alla festa, queste pillole che tra l'altro è molto facile prendere anche con la ricetta medica in Italia, lo giuro, perché anche sì, qui c'è una grande, un grande smercio il calvario, di questo, di la notte, Norlevo, Levonel, eccetera eccetera. Quindi è questa cosa che mi fa paura, l'idea che tu in fondo ti fai anche un po' del male in nome di un'idea di libertà che non è felice come idea di libertà. E su questo Mariella è d'accordo lei? Su questo? Sì, su questo io sono sono assolutamente d'accordo, cioè che uno debba ritrovare dentro di sé il senso di quel che fa, io perfettamente d'accordo con Nicoletta. Ma secondo lei c'è una possibilità di trovare un compromesso? Perché vede, io radicalizzo il problema, perché credo che per comprendere, per capire, bisogna non essere ipocriti, bisogna essere limpidi, non sono un puritano, non voglio vietare il sesso, vietare l'amore, la ricerca, il piacere, ma però voglio dire, al fondo della questione c'è la necessità di un compromesso, cioè secondo me la cultura educativa del mondo contemporaneo è andata semplicemente troppo in là, ha varcato una linea rossa, una frontiera, e deve cominciare una riflessione aspra, vera, sul significato di questi 40 anni, no? Però vede, quando io le dicevo i modelli sono molto più ampi di quelli strettamente connessi alla sessualità in senso tecnico, e le facevo quell'esempio della ragazza della Bocconi, no? E quindi le parlavo di modelli culturali, lei mi ha risposto: ah, ma queste sono manipolazioni propagandistiche, no? Come se ci fossero dei territori che in fondo ancora non abbiamo esplorato o non vogliamo esplorare. No, io volevo dire che sono stupito del fatto che ci sia, soprattutto nella cultura di sinistra e che si autodefinisce laico progressista, tanta lodevolissima attenzione per il destino delle minorenni, per il corpo fatto oggetto, per una concezione dell'amore strumentale, eccetera, quando si parla del Presidente del Consiglio, e invece le minorenni, diciamo, vengono frequentate da queste leggi, secondo me, infami, in modo strumentale, oggettivante e senza cura per il loro amore di se stesse e per il nostro amore del loro amore e del loro disordine. Ma infatti bisogna proprio, secondo me, cercare di uscire da questa palude, da queste secche delle contrapposizioni politiche usando il corpo delle ragazzine. Però per fare questo bisogna tentare di uscire da tutto, dall'una e dall'altra semplificazione, se ci riusciamo. Mi rendo conto che è una sfida difficilissima. Eh beh, insomma, di missione impossibile fatta la vita delle persone, diciamo, dotate di ragione, se tutte le missioni che intraprendiamo fossero solo quelle possibili. Grazie a Mariella Gramaglia, grazie a Nicoletta Tigliacos, a Guido De Franceschi, a Michele Calcaterra, che ci aveva lasciato prima, corrispondente dalla Spagna del Sole 24 Ore, in redazione Franca Fossati e Gloria Guerrero, in regia Alessandro Chiappini e Fabio Cantatori, linea al GR, poi Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Grazie a voi, a domani.